Ciao a tutte. In questo 8 marzo, in questo delirio da fine della storia del capitale neoliberista, che ha la sfrontatezza, l'arroganza, l'impunità di chiamare per le sue malefatte all'unità della nazione, vale a dire di tutte le oppresse e oppresse, di tutte gli sfruttati e le sfruttate, abbiamo scelto di usare la parola come un'arma e di raccontare come funziona questa società. E allora abbiamo deciso di aprire queste riflessioni con dei versi che più di qualunque altra cosa riescono a comunicare spesso con immediatezza pensieri. Ed ecco qua. La lingua è un tamburo. La lingua è un tamburo, un tamburo, un tamburo. La lingua è un tamburo e suonare il tamburo è stato messo fuori legge. Vietato suonare il tamburo, tranne la domenica, in alcuni parchi pubblici, tra le 2 e le 4 del pomeriggio. La lingua è un tamburo, un tamburo, un tamburo. E suonare il tamburo è stato proibito, specialmente se sei un non bianco, specialmente se sei una donna, il tamburo è proibito. Questi non sono racconti per far paura, dico, troppi hanno perso la lingua quando si sono ostinati a parlare, quando hanno sfidato l'autorità, quando hanno preteso i loro diritti. La lingua è un tamburo, un tamburo, un tamburo, e suonare il tamburo non è permesso, non più, nemmeno la domenica al parco. Ma la mia lingua è un'antica comunicazione, non prende gli ordini molto bene, continua a imparare nuovi linguaggi, crea nuove sintassi. La lingua è un tamburo, e il tamburo è un'antica forma di arte che raggiunge ogni popolo, non importa la distanza, non importa l'interferenza. La lingua insiste a essere un tamburo, e il tamburo suona, budum, budum, forte, continuo, echeggiando la distanza. La lingua è un tamburo, budum, budum, budum. E allora, proprio perché riteniamo molto importante raccontare le cose come stanno, cominciamo dal saluto che ci siamo date, e cioè abbiamo detto ciao a tutte. Ma ciao a tutte non è rivolto a tutte le donne. Oggi, nella stagione neoliberista, non ha senso chiamare a raccolta tutte le donne, perché non tutte le donne sono nostre sorelle. Non sono nostre sorelle quelle che fanno il lavoro sporco di licenziare dall'alto di posizioni acquisite e privilegiate, altre quelle che reprimono e condannano forti di una divisa, di una carica istituzionale. Non sono nostre sorelle quelle che giustificano le guerre umanitarie, quelle che medicalizzano tutte le altre, quelle che partecipano da posti di responsabilità negli ospedali o mimetizzate col camice bianco alla guerra alla 194, quelle che propagandano l'ideologia dominante partecipano attivamente all'oppressione e alla violenza di questo sistema, perché questa sì è violenza e oppressione su tutte le altre donne e sugli oppressi tutti. Perché è vero che tutte le donne sono accomunate dall'oppressione patriarcale, l'oppressione patriarcale è trasversale alle classi e alle frazioni di classe. Ma le donne che hanno scelto in cambio della loro promozione personale di mettersi al servizio del patriarcato e del neoliberismo non possono essere nostre sorelle, perché si sono poste dall'altra parte della barricata. Abbiamo parlato tempo fa con delle compagne, delle femministe, no? Che ci hanno detto: sì, avete ragione, le cose stanno così, però non ce la sentiamo di rompere il fronte, un fronte comune di lotta e di portare allo scoperto questo problema. Allora, è un grave errore, perché questo errore è già stato fatto negli anni 70 e gli errori non si possono ripetere, anche perché la storia e la memoria servono a questo. Negli anni 70, quando avevamo scoperto di essere tutte sorelle, ed era stata una scoperta importantissima, una sensazione di carica vitale molto molto forte. Poi non siamo stati in grado, però, proprio per questo, proprio perché era una scoperta così dirompente, così importante, non siamo stati in grado di denunciare quello che stavano facendo le socialdemocratiche, le riformiste, quelle che adesso chiameremmo riformiste, comunque le socialdemocratiche, che hanno cominciato a usare l'emancipazionismo a cui aveva aperto il sistema per propagandare il principio che entrare nello Stato sarebbe stato importantissimo per le donne e avrebbe cambiato la storia delle donne. E hanno condannato tutte quelle che continuavano a portare avanti auto-organizzazione, autonomia, distanza da parte distanza dalle prese di posizione riformiste. Le hanno condannate perché non avevano delle posizioni utopiche, non si rendevano conto di quello che stava succedendo, delle conquiste che erano state fatte, e hanno riconsegnato le donne mani e piedi legati allo Stato attraverso una delle cose più importanti che sono successe in quegli anni, cioè attraverso la delega di nuovo alle esperte e agli esperti. Questo insegnamento noi non lo dobbiamo mai dimenticare e non dobbiamo ripetere quell'errore, tanto più che nella stagione neoliberista questo errore, riproporre questo errore è ancora più grave e ancora più devastante. Perché è ancora più devastante? Perché la loro forza, oltre ad aver ridotto il femminismo a una questione femminile e averlo chiuso in rivendicazioni corporative a difesa di privilegi di collocazione sociale, però la loro forza è di fornire un paravento dietro il quale la società patriarcale neoliberista può nascondere i propri obiettivi reali che sono per esempio l'inasprimento della disoccupazione, la precarizzazione della vita, le crescenti disuguaglianze, le guerre umanitarie, i ruoli di cura stesso da cui dicono di essere affrancate e in cui però viene prepotentemente confermata la stragrande maggioranza delle altre donne. Questi obiettivi chiaramente sono inconfessabili, si veicolano allora come emancipazione e come transizione che dovrebbe condurre alla nostra liberazione, facendo di un problema strutturale un problema culturale. È necessario quindi sottrarsi ai rituali, ma anche ai controrituali che vengono tirati fuori, messi in atto, messi in campo, ogni volta che c'è, come per esempio questo 8 marzo, una ricorrenza. Non è che le feste tipo l'8 marzo, le ricorrenze o i giorni di lotta devono essere cancellati, anzi li dobbiamo rivendicare, ma non devono diventare né rituali e tantomeno controrituali. Perché una delle modalità che il neoliberismo ha assunto è proprio quella di strumentalizzare le istanze antagoniste, di masticarle e di disputarle a suo uso e consumo. Allora, tanto per cominciare da uno dei punti che ci interessano in maniera particolare, possiamo cominciare da un concetto e una dimensione che il neoliberismo ha fatto propria e che ha disputato a suo uso consumo, per esempio la differenza, l'emancipazionismo, e quindi passo la parola a Noemi. Allora, sì, sulla differenza e l'emancipazionismo c'è molto da dire, però diciamo volevo iniziare con una frase di Colette Guillaumin, femminista materialista francese, che già nel 1980 aveva detto appunto che l'idea di differenza c'era la dominazione, un po' forse anche a critica di quel genere di femminismo che un po' stava prendendo piede e che poi in realtà abbiamo subito per molto tempo e subiamo ancora, che appunto si fondava sulla differenza sessuale o culturale. Però senza mai porsi effettivamente chi era l'altro, no? Cioè ponendo appunto la discussione sul separatismo su una differenza semplicemente biologica che appunto non andava a scardinare la dominazione di questo sistema, dell'uomo in quanto appunto sistema. Per citare ancora appunto un'altra compagna francese che sempre negli anni 60-70 appunto ci parla di femminismo. E nel Christine Delphine, nel suo articolo L'ennemi principal, appunto, arriva alla conclusione che il nemico è il sistema e non l'uomo in sé. E quindi è il sistema che, costruendo i ruoli sessuati, che sono appunto funzionali a sfruttamento, che il patriarcato prima in qualche modo aveva ovviamente sussunto e gestiva, il neoliberismo, semplicemente prima il capitalismo, hanno compreso che questo sistema patriarcale funzionava allo sfruttamento gli era congeniale. Per cui l'ha ovviamente sussunto all'interno di sé. E i ruoli sessuati quindi ovviamente sono gerarchizzati, perché non potrebbero essere altro in un sistema neoliberista o patriarcale. Però perché voglio parlare appunto di differenza, di emancipazionismo rispetto a quello che diceva prima Elisabetta? Perché intanto un punto principale che mi preme dire è che anche la questione dell'emancipazionismo, che ovviamente è un dato che a noi non fa né caldo né freddo, cioè nel senso è semplicemente un primo scalino che tutte noi abbiamo dovuto salire, anche la storia dell'emancipazionismo, soprattutto quando si parla di 8 marzo, è comunque cioè è diretta dall'alto, quindi noi quello che sappiamo di quella che è stata la lotta per l'emancipazionismo, che ovviamente riconosciamo, no, non neghiamo, si ferma lì senza avere appunto una critica politica. Per quanto riguarda la questione delle suffragette, a me viene in mente il fatto che nessuno ci racconta mai che le suffragette non sono solo quelle signore che andavano in giro con quella fascia anglo-americane e che chiedevano il diritto di voto, anche perché quelle signore che nell'immaginario comune ci vengono raccontate come appunto le nostre madri spirituali del femminismo, non lo sono perché. Per quanto ci riguarda, questo l'abbiamo esplicitato più volte, è fondante nella lotta del femminismo avere una visione di classe. Queste donne, queste suffragette, almeno quelle che ci vengono, quelle che ci vengono narrate dal potere, dal sistema, sono donne che in realtà non mettevano in discussione la questione di classe, erano donne completamente all'interno del potere, tant'è che la maggior parte delle suffragette, quando si trattò di mediare col potere, quindi con le istituzioni, sulla questione del voto rispetto all'entrata in guerra delle proprie nazioni, queste signore scesero a compromesso e quindi misero davanti la lotta del femminismo, tra virgolette, come ci viene sempre raccontato, in funzione appunto della patria, una patria che ovviamente non, come ad oggi, non può rappresentarci, cioè noi non dobbiamo nulla, come loro non avrebbero dovuto nulla a questa patria. Tant'è che però le cose non sono andate proprio così, cioè ci sono state suffragette, addirittura caso ne parlo di una semplicemente perché forse alle orecchie di tutte possono sembrare nomi sentiti, perché appunto, come diceva Eli, sanno come raccontarci la storia e la storia che ci hanno raccontato, soprattutto in questo periodo di MeToo, di rivendicazioni femministe e femminili, è stata quella di raccontarci delle Pankhurst, per esempio, no? Nel film Le suffragette. Beh, una delle Pankhurst, alla madre e alla sorella che scendono a compromesso per appoggiare l'entrata, l'entrata in patria, l'entrata in guerra della propria patria, loro rispondono appunto che loro l'avrebbero fatto, e appunto la prima guerra mondiale, stiamo parlando, scusatemi, ero dimenticata di dirvi quale fosse la guerra. Appunto, la madre e una delle figlie decidono appunto di appoggiare il governo, e invece una delle figlie, Silvia Pankhurst, è una delle tante comunque suffragette che si oppone a questa posizione politica delle altre suffragette, dicendo che in quanto femministe loro dovevano avere una visione di classe, ha avuto un carteggio con Lenin, l'ha messo in discussione. Anzi, ci ho anche litigato più volte in alcune lettere. Quindi, appunto, questo per un po' per farvi capire che non è andata proprio come ci hanno raccontato e tuttora continuano a raccontarci. Questo per dire che in realtà questo terreno in cui continuano a chiederci compromessi nasce, insomma, da una storia che è stata inventata. In storia si parla spesso. So che sto citando un uomo studioso, però esiste l'invenzione delle tradizioni. E l'invenzione delle tradizioni è sempre stata funzionale al sistema, che ovviamente è un sistema patriarcale ed è un sistema politico che ovviamente non rappresenta la classe, ma neanche lontanamente, che per creare appunto un rituale, una tradizione, qualcosa che rendesse fondante davanti agli occhi di tutti, che creasse appunto in qualche modo anche qualcosa di simbolico, ha sempre creato a tavolino delle idee. In questo caso si tratta semplicemente di puro revisionismo, cioè raccontare solo un pezzo della storia e non raccontare il resto, raccontarlo in certi termini e appunto utilizzare le parole come metodo di oppressione. Altro è simile all'emancipazione, potremmo dire che è l'integrazione. L'integrazione ha lo stesso problema dell'emancipazione, per cui anzi è molto più palese forse questo, perché ovvio che se tu dici all'immigrato o a chi altro se ti comporti bene e segui le mie regole, io poi ti faccio stare bene all'interno di questa piccola cerchia di fortunati, è ovvio che si instaura comunque intanto una gerarchia di meritocratica. Ovviamente, come anche abbiamo detto spesso, meritocrazia, che non è un concetto di ho fatto bene il compito e basta, è un concetto di ho seguito certe regole, mi sono comportato entro certi confini e quindi sono meritocratico, quindi merito qualcosa. È asservimento la meritocrazia, non è essere, non è nel significato, diciamo, puro della parola, ma significa questo. Quindi l'integrazione molto spesso è stata questa. Pensiamo all'esempio dei Rom, o che appunto non sono mai stati considerati nemmeno, e forse meglio per loro, perché nessuno ha mai pensato effettivamente di integrarli in qualche società, perché non si sono proprio posti il problema delle gerarchie di valore che questa società, che questo sistema neoliberista gli ha voluto imporre, e quello capitalista prima. Oppure agli indiani d'America, per esempio, pensiamo all'episodio di Wounded Knee, dove appunto non è vero che sia andata così, c'è qualcuno che si è opposto. La storia non è sempre come ci viene raccontata, e sul femminismo in realtà passa sempre esclusivamente la narrazione in cui noi ci siamo asservite e noi chiediamo semplicemente tavoli, noi chiediamo compromessi. Invece, in quanto femministe materialiste, questo dovremmo distruggerlo, cioè noi non entriamo in compromesso con nessuna istituzione, soprattutto con un'istituzione che non ci riconosce, non ci ha dato niente, ci ha solo tolto tutto e ci schiavizza fondamentalmente, ci rende comunque e continua a renderci il sesso debole, vuole comunque mantenerci nella stessa nicchietta dove ci ha recluso per secoli. Beh, sempre in relazione a quanto detto poi, perché si ricollega sia a quanto già detto da Elisabetta, sia a quanto già detto da Noemi, esiste una questione molto attuale che è legata a doppio filo alla lotta femminista, ma è legata a doppio filo alla lotta politica che ci riguarda tutti, perché poi spesso si tende a fare l'errore di considerare la lotta femminista qualcosa di molto settoriale, quando invece è qualcosa di molto interno a una problematica, forse è il nocciolo di tutta la questione politica. La contraddizione forte che ci pone il tempo attuale che viviamo e che è un tempo, un'epoca molto, molto violenta, sebbene si tratti di una violenza che insomma, ci viene spesso sfilata via da sotto gli occhi per farci sentire meno in colpa, perché poi di questo di fondo si tratta, ma anche perché è fisiologico del momento, insomma, dell'evoluzione economica stessa del sistema nel quale stiamo, è quella tra emancipazionismo e femminismo, che non è altro che la contraddizione ancora in essere, qualcuno mi potrebbe rispondere dialettica, ma dialettica fino a che punto non si sa, tra l'esercizio del diritto individuale, o meglio il diritto all'esercizio del proprio diritto individuale e il diritto collettivo, che poi teoricamente dovrebbe essere prioritario, ma a che punto arriva appunto questa priorità, cioè fino a dove ci si può spingere per affermare la priorità del bene collettivo e del diritto collettivo. È una questione annosa. Però, appunto, probabilmente il fatto di essere femministe ci pone probabilmente in una prospettiva privilegiata perché questo dissidio, questa contraddizione e dunque anche il posizionamento che è necessario adottare e su cui è necessario schierarsi, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, nella pratica quotidiana. E vediamo bene questa contraddizione nelle nostre lotte, ecco, anzi, nelle nostre battaglie, più che mi piace anche cambiare termine, nelle nostre battaglie quotidiane, nella misura in cui, e questo è appunto proprio perché il femminismo ci consegna una prospettiva privilegiata, è una questione dalle femministe. Ma poi di varia estrazione, già affrontato tanto tempo fa, e poi risolto male, bene. L'emancipazionismo non è altro che quello che vediamo proposto dai paesi occidentali e che si traduce in una declinazione. Insomma, in una cooptazione, anzi, perché le donne vengono cooptate all'interno di un sistema che è quello nel quale viviamo e che garantisce una serie di benefit indubbi, perché ci sono delle conquiste, diciamo, appunto, che si riverberano poi nella possibilità di esercitare delle libertà individuali innegabili, ma che hanno delle ripercussioni a livello, oggi diremmo, globale. Sulla vita di altre donne e questo riverbero, queste ripercussioni profondamente negative, profondamente delittuose anche, fanno sì, d'altra parte, che non ci si possa fregiare o che non si possa comunque darsi da sole il patentino di femministe, che è qualcosa che oggi va molto di moda fare. Ecco, dare patenti. Darsi patenti e il femminismo non dovrebbe darne e non dovrebbe darsene, per mettersi in cattedra, insomma, dettare la linea, rispetto appunto a questioni del genere, ma nella misura in cui quello che conquisto io va a danneggiare e non danneggiare. Così, insomma, su inezie, ma danneggiare in modo profondo, cioè il mio diritto nega sostanzialmente il diritto di un'altra donna, che sia a 350 km di distanza o a 3.000 km di distanza non fa alcuna differenza, e questo riguarda anche se vogliamo l'internazionalismo, che è una parola un po' più bella di globalizzazione. Ovviamente questo fatto impedisce, rende impossibile definire femminista qualsiasi tipo di lotta in questo senso. Sì, anche in epoche relativamente recenti ci sono state appunto delle conquiste, insomma, dei contentini, io li chiamerei più che altro contentini, delle concessioni che si sono attuate anche su uno spazio di negoziazione che era disponibile in quel periodo, sullo spazio di negoziazione del diritto, però appunto erano contentini, erano piccole concessioni e soprattutto la strategia per ottenerle e il punto di partenza era un punto di partenza più radicale rispetto a quello che c'è oggi. Quello che c'è oggi e che va per la maggiore, perché poi non c'è, per fortuna, benché vogliano farcelo credere che esista un partito unico dello pseudofemminismo, esiste anche altro. Esiste anche una diversità anche di punti di vista ed esiste anche un altro modo di fare politica che appunto viene chiamato radicale, ma che insomma in confronto, cioè, io lo chiamerei quasi moderato perché essere radicali è altro, ma chi fa politica lo sa, il vero radicalismo è altro. Noi non andiamo a prendere a botte nessuna e nessuno, quindi già per questo non siamo poi così tanto radicali. Diciamo piuttosto che questo, insomma, preteso partito unico, proposto, insomma, imposto partito unico dello pseudofemminismo, più che moderato, è complice, è connivente e ha qualcosa da guadagnare. E cioè è appunto quella pseudo-emancipazione. E dico pseudo con cognizione di causa perché, insomma, vogliamo dire che credono alle promesse del capitale, credono alle promesse del capitale. Poi, se dico capitale, sembra quasi un termine un po', come dire, staccato dalla realtà quotidiana. Diciamoci la verità: sono posti, ci si spende la laurea che si è presa, si entra in qualche associazioncina con i soldi con i finanziamenti europei, con i soldi dello Stato, diamo un senso alle nostre singole esistenze quotidiane, si tira avanti così e così possiamo anche sentirci dire appunto abbiamo un riconoscimento istituzionale che noi facciamo qualcosa per gli altri e che siamo veramente rosa, veramente femministe, noi siamo buone, noi siamo brave, noi siamo donne, donne, queste quote rosa, che meraviglia, che felicità. Poi alla fine però ti ritrovi in una società che è 10 volte più violenta rispetto a quella che c'era 50 anni fa, il che sembra paradossale, ma non lo è, e però non è casuale, non è casuale, perché se uno vuole comprendere i processi storici può farlo, però lo deve fare seriamente. Perché poi, mi ricollego all'inizio di questo mio intervento, forse un po' lungo, un po' dispersivo, ma certamente sentito almeno. Quello che dicevo all'inizio, no, di questa aderenza che c'è, non totale, non assoluta, però sicuramente ampia, tra la contraddizione emancipazionismo-femminismo e la contraddizione tra esercizio. Ecco, urbi e torbi, diciamo così, del proprio diritto individuale e priorità che deve essere appunto data al diritto collettivo. C'è un'aderenza innegabile perché, e lo vediamo anche in questi tempi, insomma, così convulsi, così incerti. Anche un po' così minchioni, mi viene da dire, no? Perché poi uno si mangia sempre sotto il gomito quando fa delle scelte in un certo senso, no? Ma sì, ma tagliamo i fondi, ma facciamo questo, ma no, ma bisogna dare libero spazio alle iniziative, eccetera, e poi ti rendi conto che nei casi di emergenza, certo, se li famo morire tutti, non ci comprano più e quindi devi dare, cioè nel senso le persone alla fine riacquistano importanza nella loro essenza di esseri umani proprio insomma, al limitare dell'estrema unzione, però già è qualcosa. Perché c'è questa aderenza però, tornando ad essere un attimo seri? Il diritto individuale è insomma, un baluardo, la difesa del diritto individuale è un baluardo del pensiero liberale. Locke, potremmo definirlo capostipite, no? Però c'era al fondo del pensiero di Locke la difesa della proprietà privata e Locke era comunque figlio del suo tempo, era figlio di una società che si stava affermando sempre di più, ma in modo anche definitivo, ecco, quasi ineluttabile, che era la borghesia, che non è per quanto noi possiamo, appunto, per quanto possa esserci invisa, non si può certo dire che la borghesia sia una classe di stupidotti, però il pensiero liberale ha questa grande insidia dentro di sé, che vende il sogno del riscatto, spacciandolo per un riscatto che possa essere di chiunque, come un riscatto collettivo. Ecco, non è un riscatto collettivo, è un riscatto individuale. Dà solamente la possibilità ad uno su mille, se ce la fa e soprattutto se è pronto a sgomitare e a pistare il prossimo o quello che c'ha immediatamente sotto, dà a degli la possibilità di mettersi semplicemente al posto di chi l'ha preso a calci in faccia fino a un secondo prima. Quindi il riscatto, secondo il pensiero liberale, è quello di continuare a perpetrare questo prendere a calci in faccia chi sta poco sotto di noi per colpa nostra, perché di fondo nel momento in cui io mi metto al posto di chi mi impediva di esercitare il mio diritto fondante di essere umano, che poi si può fare il diritto degli uomini e il privilegio lo distinguevano addirittura anche i peggiori, insomma, però ma spaccia che poi è il sogno americano, insomma, quello che vendono gli Stati Uniti, no? Dico gli Stati Uniti per dire, insomma, per riassumere sinteticamente un po' tutto questo filone. Quindi di base noi ci ritroviamo ancora dopo tanti anni, anche convinti di aver appunto ottenuto chissà quali conquiste, sempre al punto zero, o al punto zero, al punto 1,52, che è quello. Veramente questo diritto individuale, veramente dobbiamo ancora subire la fascinazione di questo diritto individuale, di questo esercizio del poter fare quello che ci pare, del libero arbitrio sempre e comunque. Ed è proprio vero che il diritto collettivo sia ineluttabilmente legato alla coercizione, o forse è legato alla coercizione in uno Stato, in un sistema come il nostro, che difende proprio il diritto individuale. Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, asservies, humiliées. Les femmes achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Devons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous sont divisés, les femmes et de nos sœurs séparées. Le monde de femmes esclaves, et puis ils ont nos entraves. Il neoliberismo si è affermato, è diventato metabolismo sociale. Ma quali sono le caratteristiche fondanti che lo informano? Sicuramente una è la rottura unilaterale da parte del sistema del patto sociale, vale a dire la contrattazione non ha più spazio, lo spazio che è stato lasciato aperto è solo quello del collaborazionismo. Un'altra sicuramente la strumentalizzazione delle istanze antagoniste, perché queste vengono sussunte, masticate, disputate in maniera funzionale al sistema, in modo che il sistema stesso passi come democratico, aperto, plurale, attento, al di sopra delle parti e via discorrendo. Però c'è una caratteristica che riteniamo importantissimo svelare e di conseguenza quella fondante da disarticolare, e cioè è la femminilizzazione del lavoro e della società tutta. Quando abbiamo fatto una presentazione della nostra ultima fatica, il libro Quattro Passi, ci è stato detto che il termine femminilizzazione in effetti era stato usato in passato come ingresso delle donne nel mondo del lavoro. E che allo stesso tempo femminilizzazione apriva a una sensazione positiva, no, del termine, perché le caratteristiche femminili sono positive secondo chi ci ha fatto questo tipo di osservazione. Allora, l'osservazione ha in sé una qualche validità effettivamente, perché il termine femminilizzazione nel mondo del lavoro è stato usato in passato per dire proprio che sono entrate tante donne nel lavoro salariato. Mentre l'altra osservazione è più dovuta a un introiettare nel comune sentire che le caratteristiche delle donne sono dolcezza, cortesia, pazienza, comprensione, insomma tutto quel pacchetto che ci viene con cui veniamo costruite, che costruisce proprio il modello femminile, il modello donna, il modello sociale donna. Allora teniamo a dire che invece con questo termine noi intendiamo riferirci al fatto che i meccanismi di oppressione specificatamente patriarcali adesso informano le dinamiche relazionali fra individui e individui, fra individui e istituzioni, e sono usati per disciplinare tutto il corpo sociale a prescindere dalle differenze di genere. Questo sta facendo il neoliberismo. Vogliamo usare un altro termine? Sta patriarcalizzando il sociale. Quelle che erano caratteristiche patriarcali che informavano l'universo donna vengono trascinate in tutto il sociale. A questo proposito vi leggo un pezzo di Margherita che non può essere qui con noi oggi, ma che ci ha lasciato il pezzo scritto, e quindi di questo leggerò alcune parti che riguardano proprio questo ambito, no? Nella fase neoliberista, lei dice, il potere del capitale ha fortemente esteso il suo ambito di azione. Lo sfruttamento della forza lavoro, che prima occupava prevalentemente la sfera della produzione, ora occupa tutta la sfera del vivere. Il conflitto capitale-lavoro, che già negli anni 70 non era confinato alla fabbrica, ma anche ai territori, è oggi un conflitto capitale-vita. E ciò è accaduto perché con grande reciprocità di intenti e di azione, neoliberismo e patriarcato sono riusciti a imporsi come metabolismo sociale. In questo scenario è allora fondamentale intendere il patriarcato nella sua qualità di rapporto sociale e individuare tutti gli strumenti con cui agisce e gli ambiti in cui si articola, dalle relazioni produttive e riproduttive a quelle sentimentali e affettive. È qui che l'esperienza della lotta femminista e il discorso femminista possono fortemente contribuire a innescare processi e percorsi di liberazione non solo delle donne, ma di tutti gli oppressi. L'asservimento delle donne è stato infatti praticato e perpetuato, estorcendo la nostra partecipazione emotiva ai dispositivi dello sfruttamento. Il corpo è la nostra fabbrica, la famiglia è la nostra azienda. Il lavoro di cura e riproduttivo è un lavoro non pagato a cui siamo spinte col ricatto affettivo. Affermare che per una donna la famiglia è come l'azienda e che il corpo è come la fabbrica non significa solamente mettere a fuoco che la catena di produzione, come si diceva, inizia dai fornelli e dai lavelli domestici. Questa affermazione costringe anche a riflettere sulle qualità proprie dello sfruttamento patriarcale e sulle modalità con cui esso agisce. È evidente infatti che non si tratta propriamente di un'analogia, perché il corpo sta alla donna in modo differente rispetto a come la fabbrica sta ai lavoratori. Il modo in cui la donna è messa al lavoro è diverso dal modo in cui il lavoratore è impiegato in fabbrica. Lo sguardo maschile, dal quale per noi donne è così difficile sottrarci, è l'istanza di riconoscimento che ci tiene ancorate al patriarcato, perché se usciamo dai ranghi perdiamo l'amore romantico del nostro uomo, l'amore filiare o quello fraterno, la stima e l'amicizia del consesso degli uomini e delle donne che stanno nei ranghi. Il neoliberismo ha esteso questi dispositivi di sfruttamento oltre la famiglia, oltre il lavoro riproduttivo, ha femminilizzato il lavoro salariato. L'azienda neoliberista pretende da lavoratori e lavoratrici una dedizione assoluta, una continua reperibilità e soprattutto una partecipazione emotiva alle sorti della stessa. Non solo, con sempre maggiore frequenza, portiamo a casa il lavoro e non riusciamo più a godere del poco tempo libero che ci viene lasciato, ma accettiamo supinamente, quando non la riproduciamo, l'ideologia meritocratica e l'ossessione valutativa che questa si porta dietro e che oggi permea tutte le istituzioni pubbliche e private, fino a consegnarci alla cultura della delazione. Allora, vi rimandiamo per l'approfondimento di questi concetti di cui vi abbiamo parlato a dei testi che troverete sul nostro blog e che caricheremo a margine di queste riflessioni. Vi vogliamo leggere dei versi, come abbiamo cominciato, con dei pensieri, così vogliamo finire con dei pensieri in versi. Voglio il mio vestito nero, voglio che i capelli mi si arriccino selvaggi, voglio riprendere la scopa dall'armadio dove l'ho rinchiusa, stanotte incontrerò le mie sorelle nel cimitero, a mezzanotte se ti fermi al semaforo nel traffico umido della città, guarda se ci vedi contro la luna. Noi gridiamo, noi vogliamo, noi ricordiamo e non smetteremo. Ciao a tutte. Ai mare aneu a missa, que jo faré el dinar quan hagueu tornat de missa. Patiu pas per mi mare, faig lo que em vau ensenyar. Serem les dones valentes, sense por del que vindrà. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la